Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Una sola sentenza per la nullità delle nozze, processi gratuiti, brevi, se la nullità è evidente. Ecco la svolta del Papa, un cambiamento che arriva dopo 3 secoli. La Germania pronta ad accogliere 500.000 di profughi all'anno per qualche tempo, dice il vice cancelliere tedesco. In anteprima i dati sugli arrivi in Italia, in anteprima Radio 24, aggiornati ad oggi, sono 122.000, in maggioranza eritrei, nigeriani, somali, sudanesi e siriani. Sulle riforme costituzionali si riapre la partita all'interno del Partito Democratico. Bersani attacca: su questo tema non ci sarà disciplina di partito. Dopo il caos del 2014, con le migliaia di ricorsi, oggi nuovi test per l'accesso a medicina, proteste davanti alle facoltà. Stasera l'Italia sfida la Spagna negli europei di basket. L'ex CT della nazionale gamba ai nostri microfoni dice: difendiamo poco e male. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, via sms il 349-238-6666, anche oggi così come per tutta la settimana e così come per altri programmi di Radio 24, trasmettiamo in diretta da Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare a Expo Milano 2015. Parleremo tra poco delle decisioni arrivate poco fa, o meglio comunicate poco fa, in merito alla nullità delle nozze religiose, la nullità matrimoniale, un processo canonico che cambia dopo essere rimasto identico per 3 secoli, ma prima torniamo ad occuparci di profughi e di immigrazione. La prima cosa che facciamo è collegarci con il confine bulgaro, dove si trova la nostra Raffaella Calandra, che da quel che abbiamo appreso è stata fermata dalla polizia. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Speriamo di non essere ufficialmente in uno stato di fermo, questo ancora non lo sappiamo. So che siamo alla confine tra Bulgaria e Turchia in questo momento, con 8 poliziotti davanti a noi che, diciamo, si stanno continuando a chiamare degli altri capi. Il problema qual è? Il problema è che, per cercare di raccontare il più possibile vero, diciamo, questo percorso arretroso dei migranti, sono arrivata a ridosso della frontiera, della barriera di muro spinato che la Bulgaria ha costruito per chiudersi rispetto alla Turchia, in una zona laddove stanno adesso allungando questa barriera. E per la polizia, secondo le autorità bulgare, questo non si poteva fare. Non si poteva arrivare così sotto, non era consentito arrivare in una zona così vicina a questo punto così sensibile. Il nostro obiettivo è quello di raccontare il cammino dei migranti, e questo è uno dei punti in cui ci sono maggiormente passaggi dei migranti dalla Turchia alla Bulgaria. Abbiamo visto davanti a noi questa barriera di circa 4 metri, sormontata ulteriormente per altri 2 metri da filo spinato, e che ora viene non solo allungata ma anche allargata, e ho visto questi sorta di piloni con le telecamere in vetta che sono stati messi per poter controllare ogni passaggio. La Bulgaria tenta così di allontanare i migranti che usano questa rotta per entrare in Europa, e sta cercando anche di costruire una serie di strade nelle zone più boschive per poter favorire i pattugliamenti in questa area. Praticamente si segue la traccia della vecchia cortina di ferro, ed è camminando attraverso queste foreste di pioppi, di aceri, in un cammino che non riusciamo neanche ad immaginare quanto spaventoso debba essere per i migranti che lo fanno soprattutto di notte, e che si arriva a questo tracciato della barriera, dove appunto adesso si stanno costruendo altri punti di blocco. Hanno fermato in questo momento 2 persone del posto che mi avevano accompagnato per arrivare fino a questo posto. La polizia le sta portando con loro, non so se in questo momento le hanno messo proprio in stato di fermo. Allora Raffaella, io ti lascerei il tempo di raccogliere le informazioni anche su quello che sta succedendo, e ti riprenderei nel corso della trasmissione sia nella seconda parte che nella terza parte, per fare un punto tanto su quello che sta succedendo a te e alle persone che ti hanno accompagnato, quanto sulla situazione che stai verificando là. Quindi più avanti torneremo a collegarci con Raffaella Calandra, ma andiamo sul tema più generale. Ci sono vari fronti, quello dell'accoglienza o non accoglienza europea, come avete sentito, quello dell'accoglienza italiana, la situazione sui confini caldi, le ipotesi anche di intervento militare, anche di queste parleremo più avanti. Andiamo intanto però con i nostri servizi su quello che ha dichiarato la Germania oggi e anche sui dati che abbiamo in anteprima come Radio 24 in merito agli arrivi. Sentiamo. A bordo di piccole imbarcazioni vicine alle isole del Dodecaneso, la Guardia Costiera greca nelle ultime ore ha tratto in salvo oltre 500 persone. A Lesbo, la più grande delle isole che si affacciano sulla Turchia, sono già in 25.000 in attesa di partire per Atene. Più a sud, di fronte alle coste libiche, sono stati tratti in salvo 121 migranti. A Budapest, la stazione Keleti è stata ripulita, ma ci sono nuove code ai treni diretti al confine austriaco. E nella notte in poco meno di 3.000 hanno passato il confine tra Serbia e Ungheria. E ne stanno arrivando molti di più. Sempre nella notte, in 7.000 hanno raggiunto la Macedonia. Numeri che spingono il premier Orban ad accelerare la costruzione del muro, a cui però sembra rispondere la Germania, che quest'anno si aspetta 800.000 domande di asilo. Siamo in grado di accogliere 500.000 persone l'anno per più anni di seguito, ha precisato il ministro dell'Economia. Quella dei profughi è stata definita come un'assoluta priorità dal Falco Schäuble. E mentre gli stati europei fanno i conti con le quote e aspettano di conoscere il nuovo piano Juncker, le diocesi italiane hanno avviato il censimento delle strutture per dare seguito all'appello del Papa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Appena il 6% di coloro che arrivano in Italia è siriano. A differenza di quanto avviene sulla rotta balcanica, i migranti che giungono nel nostro paese scappano invece dall'Eritrea. Questo dicono i dati più recenti, aggiornati ad oggi, del Ministero dell'Interno, che parlano di 121.964 persone sbarcate nel nostro paese dal 1° di gennaio. Stando a queste cifre, non c'è però emergenza. Il numero, infatti, è pressoché simile a quello del 2014, quando all'8 settembre erano arrivate in Italia 121.244 persone. Dove vengono poi distribuiti i migranti? La regione che sopporta di più il peso dell'accoglienza è ancora la Sicilia, con il 15% delle presenze. Segue la Lombardia con il 13% e poi la Campania e il Lazio, che ne ospitano l'8%. Ci sono regioni invece dove l'accoglienza è quasi nulla. Parliamo del Trentino, l'Umbria, il Molise e l'Abruzzo, dove i migranti sono appena il 2% del totale. Per non parlare della Valle d'Aosta, dove sono lo 0,2%. In Italia, i richiedenti asilo rappresentano poi circa il 10% della popolazione. La Germania, per fare un paragone, ha una percentuale del 32%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo dei cambiamenti che arrivano per il processo canonico, per la nullità matrimoniale, che sono stati annunciati ieri e specificati oggi. Anna Marino, quali sono? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Erano, come dicevi, 3 secoli che non cambiava il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale. Era rimasto identico, appunto, dai tempi della riforma di Papa Lambertini. Il Papa ha seguito personalmente la commissione che ha lavorato alla riforma del processo per la nullità matrimoniale, ha voluto essere periodicamente informato. Questo ha detto il Monsignor Pio Vito Pinto, decano della Rota Romana e presidente della Commissione Speciale per la Riforma del Processo. E infatti l'evento ha una portata storica, ma soprattutto concreta, perché i processi sono più rapidi e accessibili, come chiesto anche nel recente sinodo sulla famiglia. Nella lettera, nel testo della lettera, ci sono novità fondamentali, vediamone alcune. Il Papa Francesco ha quindi riformato le procedure stabilite finora dal codice di diritto canonico, ha esaltato la funzione giurisdizionale del vescovo, che attraverso il processo più breve potrà anche sentenziare direttamente la nullità nei casi più evidenti e più semplici. Contro le sue decisioni ci si potrà appellare all'arcivescovo metropolita più vicino o alla rota romana. Ma importante, con la riforma varata dal pontefice, anche quando il vescovo stabilisce che si faccia un processo ordinario, dovrà celebrarsi entro un anno al massimo. Questa, la velocità è importante, la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello. Le motivazioni motivazioni dell'appello saranno manifestamente infondate. Non ci sarà quindi più bisogno di due sentenze conformi, esigenza che allungava di molto i tempi. La gratuità delle procedure, appunto, infine, dicevamo, è molto importante perché è assicurata per quanto possibile. La gratuità sarà curata dalle conferenze episcopali. E per ora è tutto. E grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. Stiamo cercando di raggiungere un ospite perché sono notizie degli ultimi minuti, per avere anche un commento su tutto questo più avanti nel corso della trasmissione. In effetto giorno, siamo alla politica. Questa sera il Presidente del Consiglio Renzi incontrerà i senatori del Partito Democratico per cercare una mediazione con la minoranza sulla riforma del Senato, che dunque è il nuovo fronte di tensione. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così. Buongiorno Simone. La giornata politica oggi prevede soprattutto, al centro della giornata politica oggi c'è soprattutto il confronto sulla riforma costituzionale, che riprende il suo iter a Palazzo Madama, e come dicevi sul provvedimento riparte anche il braccio di ferro all'interno del Partito Democratico. La minoranza Dem insiste infatti nel chiedere che il nuovo Senato sia elettivo, a differenza di quanto previsto invece dalla riforma. Matteo Renzi invece ieri da un lato ha sì aperto ad un'intesa, ma senza ripartire da capo, cioè senza stravolgere il testo. Stasera il Premier vedrà i suoi senatori e l'opposizione interna non sembra intenzionata a fare passi indietro. Stamattina è arrivato anche un chiaro messaggio da parte di Pierluigi Bersani, il quale ha ricordato che di fronte ad una modifica della Costituzione non ci si può richiamare alla disciplina di partito, non si è mai fatto in nessun partito. Ha detto Renzi ha ragione a chiedere che non si apra un vaso di Pandora, ma poi c'è il libero convincimento, ha avvertito Bersani. Per ora è tutto, Simone. E grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Restiamo a Roma, ma ci spostiamo a parlare dei test di medicina dopo le infinite polemiche e i problemi dell'anno scorso. Alessandra Schepisi si trova all'Università La Sapienza, dove, se non erro Alessandra, i test dovrebbero essere finiti, no? Sì, la prova si è conclusa circa 20 minuti fa anche qui a Roma. Io mi trovo davanti all'edificio di ortopedia e qui un centinaio di diplomati ha partecipato alla corsa per il camice bianco, però i ragazzi ancora non sono usciti perché ci hanno spiegato ci sono una serie di adempimenti tecnici da rispettare per la consegna della propria prova. Tutto si sarebbe svolto diciamo regolarmente, però ancora i ragazzi tardano a uscire, quindi poi vi faremo ascoltare le loro voci. Ricordiamo che sono in tutta Italia sono 60.000 candidati per 9.500 posti disponibili, quindi uno su sei potrà farcela. Sono diminuiti i candidati comunque rispetto all'anno passato quando erano 64.000. Quanto al test, ci sono meno quesiti di cultura generale, più quesiti di carattere medico-scientifico. Una prova che, come hai detto anche tu Simone, si è svolta tra le polemiche, anche se non ci sono state le proteste clamorose dell'anno passato. Il test, secondo le associazioni degli studenti che la contestano, è un test diciamo che si presta a irregolarità, un test macchinoso, iniquo, una vera e propria lotteria. E poi l'istruzione è un diritto e l'università deve essere aperta a tutti senza barriere, dice l'Udu in particolare, che ha organizzato un presidio qui e che questa notte ha effettuato un blitz davanti al Ministero dell'Istruzione. Tra poco dunque usciranno gli studenti, ricordiamo che poi i risultati ci saranno il 22 settembre sul sito del Ministero. A te Simone. Grazie, grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. A Napoli, nella notte, ancora colpi di pistola, esplosi all'impazzata per le strade del quartiere Soccavo e del rione Traiano. Gli spari non hanno provocato feriti, ma hanno alimentato la preoccupazione di nuovo tra i residenti della zona. Il primo episodio all'1:15 in via De Civitate Dei, quando alcuni cittadini hanno allertato la polizia dopo aver udito il suono di proiettili esplosi. Della situazione a Napoli torneremo a parlare anche più avanti. Parliamo adesso invece del sciopero Lufthansa. 84 voli di lunga tratta cancellati, la metà di quelli programmati oggi, e circa 20.000 passeggeri a terra. Ma non ci fermeremo qui, dice il sindacato dei piloti Lufthansa. Domani lo sciopero interesserà i voli a medio e corto raggio e nelle prossime settimane ne potrebbero essere proclamati altri. Quello iniziato oggi è il 13° sciopero nell'ambito della vertenza sulle nuove condizioni che la compagnia vorrebbe introdurre per il prepensionamento dei piloti. Prima fra tutte, l'abolizione dei cosiddetti contratti di transizione, che ora consentono ai piloti di ritirarsi con 55 anni di età e il 60% dello stipendio. Le due parti sembrano irremovibili. Via Ci dispiace per i passeggeri, ma dobbiamo costruire una compagnia che affronti il futuro, dice questa portavoce della Lufthansa. Abbiamo già fatto le concessioni che potevamo, ribattono i piloti. In mezzo ci sono i passeggeri, ormai rassegnati a subire le conseguenze di un braccio di ferro destinato ad andare avanti ancora a lungo. La maggior parte è stata avvisata via SMS o email dell'agitazione e in aeroporto non si è nemmeno presentata. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una notizia appena battuta dalle agenzie è partita e riguarda ancora la questione dei profughi, la circolare del Viminale ai prefetti per la pianificazione dell'accoglienza di altri 20.000 immigrati, la distribuzione sempre per quote regionali che dovranno essere definite entro pochi giorni, ovviamente con prevedibili polemiche. Siamo al Festival del Cinema di Venezia, abbiamo in linea la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone, beh allora non c'è un festival senza un film che faccia polemica. Allora questa volta a Venezia tocca Viva la sposa di Ascanio Celestini, un film che qui è nelle giornate degli autori. Un'altra storia romana di periferia tra Quadraro e Morena, la storia di Nicola, artista che vivacchia, che dedito all'alcol, una serie di eventi, truffe, piccoli inganni, espedienti e poi una notte in questura con una parte finale del film che evoca casi come quelli di Stefano Cucchi e di Giuseppe Uva. Polemiche da parte dei sindacati di polizia. Ascanio Celestini ha spiegato così il senso di questa storia. Dovremmo avere l'intervista. Se si compie una violenza, si compie nel momento in cui arriva in questura. Ma noi questa violenza non la vediamo, la sentiamo attraverso un altro personaggio. E da un certo punto di vista potrei prendere, come dire, le difese della polizia e dire non è successo, non è vero. È veramente, come dice il poliziotto, è un pazzo, uno che sbatte nei muri, adesso gli facciamo anche il TSO. Da un certo punto di vista possiamo dire anche questo, per cui non è una denuncia nei confronti della polizia. Io come abitante di questo paese, come cittadino che paga le tasse, direi alle forze dell'ordine, probabilmente c'è una violenza che viene compiuta e io non so se viene compiuta da una percentuale bassissima o da una percentuale altissima degli appartenenti alle forze dell'ordine. Io non lo so, voi lo sapete, denunciateli voi, non io, e non con il cinema. Oggi invece a Venezia è il giorno di Marco Bellocchio e Sangue del mio sangue, una storia girata nella sua Bobbio con tutti i suoi familiari, applausi abbastanza tiepidi, alla prima proiezione stampa e per ora da Venezia è tutto. E grazie alla nostra Marta Cagnola. Adesso andremo a sentire che cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo, parleremo ancora delle ipotesi militari che si stanno aprendo per combattere l'ISIS e per cercare di risolvere parzialmente alla radice anche il problema dei profughi, e poi torneremo a collegarci con il confine bulgaro e con la nostra Raffaella Calandra. Come avete sentito, come vi abbiamo raccontato in apertura, è stata fermata dalla polizia. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È arrivata poco fa la circolare del Viminale per l'accoglienza di altri 20.000 migranti, saranno distribuiti su base regionale. E in anteprima Radio 24 i dati sugli arrivi in Italia aggiornati ad oggi. 122.000, in maggioranza eritrei, nigeriani, somali, sudanesi e siriani. La Germania pronta ad accogliere 500.000 di profughi all'anno. Cambia dopo 3 secoli il processo canonico per la nullità delle nozze, una sola sentenza e processi gratuiti, brevi se la nullità è evidente. Ecco la svolta del Papa. Sulle riforme costituzionali si riapre la partita all'interno del Partito Democratico, Bersani attacca su questo tema, non ci sarà disciplina di partito. Dopo il caos del 2014 con le migliaia di ricorsi, oggi i nuovi test per l'accesso a medicina, proteste davanti alle facoltà. E adesso ci spostiamo su un tema che incrocia, se vogliamo, anche la vicenda dei profughi ed è l'ipotesi di un intervento in Siria. Ieri vi abbiamo riferito che il presidente francese François Hollande sta parlando della possibilità di nuovi raid, di raid sulla Siria, oltre all'azione che viene portata avanti in Iraq. Saluto Andrea Margelletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, è stato consigliere strategico del ministro della Difesa. Buongiorno Margelletti e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie all'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori. Bentornato ai nostri microfoni. Dunque, Margelletti, le rivolgiamo una domanda che abbiamo rivolto anche ieri ad un altro esperto che consultiamo spesso, che è Gianandrea Gaiani. Ha senso un'operazione di questo genere, un'operazione fatta appunto con dei raid aerei, tra l'altro spot, o ha più senso, come dire, un intervento di terra vero e proprio, un intervento militare più intenso? Allora, è un'operazione politica. E quindi i francesi fanno un'operazione politica in un contesto come quello siriano, che è storicamente, insieme a quello della Libia, un interesse fondamentale per Parigi in quell'area del mondo. E la Siria è uno Stato sovrano e quindi non è possibile fare un intervento via terra, perché è uno Stato sovrano che ha un presidente, ha un seggio alle Nazioni Unite e via dicendo. Semmai potrebbe essere possibile in Iraq, ma lo stesso governo iracheno non ha alcuna voglia di avere, ammesso e non concesso che qualche occidentale ci voglia andare, ma lo stesso governo di Baghdad non ha alcuna voglia di vedere carri armati francesi, britannici, americani e via dicendo scorazzare per le province di Anbar. Quindi si fa quello che si può con le risorse che si hanno secondo i limiti politici che abbiamo trovato. E questo però non basterà a fermare ISIS, Margelletti? Assolutamente no, ma nessuno, come posso dire, ha mai pensato realmente di fermare l'ISIS, se no avremmo discusso anche 15 anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa, di far smettere i nostri alleati sunniti di dare supporto a dei gruppi terroristici a matrice jihadista. Questa è la vera grande ipocrisia. Ma come possiamo pensare di bloccare cosa nostra, l'Andrangheta o la Camorra, per citare diciamo tre realtà agli italiani purtroppo ben note, soltanto con il controllo dall'aria, senza le stazioni dei carabinieri presenti sul territorio, ma naturalmente anche le tenenze della Guardia di Finanza e i commissariati della Polizia di Stato. Uno deve avere il controllo del territorio, non avendo il controllo del territorio non si può fare. Un'ultima domanda, Margelletti, brevemente: dobbiamo rassegnarci all'idea che un'autoproclamata entità statuale come l'ISIS, appunto un califfato, uno Stato islamico, resti in quell'area, stante la situazione politica? No, dobbiamo essere fiduciosi di essere prima o poi governati da persone serie che abbiano una visione della politica estera più lunga di una settimana. Questa è la nostra speranza. Non possiamo lamentarci dei danni che facciamo se a guidarci sono persone che fanno operazioni spot e non hanno una visione a lungo termine. La ringrazio, grazie Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, per essere stato con noi, e siamo in grado di collegarci di nuovo con la nostra Raffaella Calandra, che si trova al confine della Bulgaria. È stata fermata dalla polizia con le due persone che l'accompagnavano in questo viaggio che stiamo facendo e che Radio 24 sta facendo sui confini dove arrivano i profughi e i migranti. Raffaella, in che situazione sei? Eccoci. Ci stanno portando al comando di polizia del comune di Elovo, che è vicino a Lesovo, che è l'estremo proprio confine, punto di confine tra la Bulgaria e la Turchia, appunto, e hanno preso i nostri documenti e adesso staremo a vedere che cosa ci diranno. Ovviamente abbiamo spiegato che siamo dei giornalisti e che stiamo facendo un reportage sul confine, però appunto anche questa reazione da parte della polizia bulgara è un chiaro sintomo di come questo sia per loro un nervo assai scoperto, perché la polizia è continuata ad aumentare rispetto ai sei agenti che c'erano prima, poi è arrivato ancora un altro capo di questo comando della zona, ha sentito i suoi contatti dal comando provinciale. Ecco, per loro diciamo che il timore evidentemente che si raccontino anche fin troppo bene, diciamo, questi che sono i punti sensibili da dove i rifugiati provano ad entrare in Bulgaria, un tracciato che la Bulgaria sta ora, come vi dicevamo già prima, ancora allungando con altro filo spinato, ma anche creando una serie di pattugliamenti intorno a quella che era il vecchio confine della cortina di ferro, in modo tale da rendere possibili pattugliamenti anche con delle jeep. Insomma, siamo cioè in aperta campagna, quindi la vecchia, quella che era un tempo la Tracia, in una zona boschiva dove appunto corre tracciato della la barriera, e si vedono in ogni ci sono delle pietre, una sorta di pietre miliari che segnano il percorso, scandite anche da piloni sormontati da telecamere per registrare tutto quello che succede. La polizia di confine appunto pattuglia queste zone, e sono stati anche mandati dei rinforzi da quando è aumentata l'emergenza immigrazione, e evidentemente, diciamo, la presenza di cronisti che raccontino quanto sta accadendo in questa zona non è assai gradita. Staremo a vedere che cosa ci diranno. Simone. Grazie Raffaella Calandra, anche più avanti torneremo a collegarci con te e cercheremo di capire se sai qualcosa di più di quello che vi succederà. Nel frattempo noi cambiamo decisamente argomento e parliamo di sport, perché c'è un incrocio tra Italia e Spagna, gli europei di basket a Berlino. Dopo il capo con la Turchia e la sofferta vittoria con gli islandesi, gli azzurri sfidano gli iberici, che sono i grandi favoriti in realtà, senza capitan Datome, out per tutto il torneo per un infortunio, con Bellinelli in dubbio. Dario Ricci ha intervistato Sandro Gamba, CT dell'Italia, campione d'Europa nell'83. Io ho visto un'Italia che difende malissimo. Nelle grandi competizioni europee, olimpiadi, campionati del mondo, se non ha una difesa di ferro è difficile andare avanti, e loro fanno fatica sulla misura della statura della nostra squadra, probabilmente la media è la più alta del girone, però è inutile essere alti, grandi e grossi e poi non difendere. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, non si vede mai un contropiede, cioè contropiede, noi prendiamo rimbalzi coi lunghi, poi la palla si ferma lì e gli avversari sono già schierati in difesa, perciò questo è un handicap non indifferente. Io penso che con Datome Novian può essere un buon giocatore, a me piace un giocatore lineare che non fa le cose miracolose. Adesso noi dipendiamo molto da Gallinari, fuori classe, eccellente in tutti i ruoli, versatile anche lui, però speriamo che stia bene, che non gli venga l'influenza. Senta, adesso ci tocca questa sfida con la Spagna di Scariolo, cosa aspettarci? Intanto hanno fatto vedere che la Spagna subito si è messa pronti via, ha dato via due schiaffoni e adesso sta allenandosi per incontrare l'Italia, con Scariolo che vorrebbe prendersi magari qualche rivincita dopo le non brillanti esibizioni in Italia in campionato di Serie A, e perciò partita molto pericolosa e partita non dico decisiva, però sai, nella classifica del girone è importante arrivare secondo me nei primi due, se cominci ad arrivare terzo o quarto dopo l'incrocio è pericoloso. Così dunque Sandro Gamba, CT del campione dell'Italia, campione d'Europa nel 1983. Allora, noi adesso ci dovremmo fermare, intanto però voglio salutare il nostro prossimo ospite, col quale parleremo subito dopo la pausa, che è Alex Zanotelli, un nome che conoscete, è un missionario comboniano che è stato a lungo in Africa e poi ha deciso di tornare in Italia e di occuparsi di del rione Sanità a Napoli. Con lui che saluto, buongiorno padre Zanotelli, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E con lei parleremo appunto subito dopo la pausa di quello che sta succedendo a Napoli in queste ore. Abbiamo visto anche l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, queste sparatorie continue, questa contesa che anche ieri vi abbiamo raccontato per una serie di piazze di spaccio. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Rivoluzione nel processo canonico per la nullità delle nozze dopo tre secoli. Una sola sentenza, processi gratuiti e brevi se la nullità è evidente. Arriva la circolare del Viminale per l'accoglienza di altri 20.000 migranti per quote regionali. La Germania pronta ad accogliere 500.000 di profughi l'anno. Riforme costituzionali, si riapre la partita all'interno del PD, Bersani attacca su questo tema, non ci sarà disciplina di partito. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una scia di sparatori d'omicidi che in parte abbiamo raccontato nei giorni scorsi. L'ultimo omicidio, quello di Gennaro, un ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola in piazza San Vincenzo alla Sanità la notte di domenica scorsa. E poi sparatorie continue nel quartiere di Soccavo. In parte lo abbiamo raccontato ieri, questo è quello che sta succedendo a Napoli. Ieri il ministro Angelino Alfano, il ministro degli interni, ha deciso di inviare altri 50 uomini per il controllo di alcune aree della città e noi siamo in linea con padre Alex Zanotelli, che è un missionario comboniano a lungo in Africa, poi quando è tornato in Italia ha deciso di installarsi nel rione Sanità per cercare di aiutare quella parte della città. Padre Alex Zanotelli, di nuovo buongiorno, vorrei capire da lei che cosa sta succedendo. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io sono proprio qui in piazza del rione Sanità, noi a piazza San Vincenzo, dove è venuta proprio piazza Sanità, è la piazza centrale del rione Sanità, un 5 km quadrati di territorio, 70.000 abitanti, ed è quello che è avvenuto la notte, praticamente alle 5 del mattino, 4:50 del mattino, attraverso davvero una sparatoria molto forte che è avvenuta proprio qui in piazza tra varie bande che facilmente si contendono il mercato della droga. Il problema grave è proprio che si tratta ormai sempre più di baby gang, di ragazzini che sono assoldati poi dai clan e dalla camorra per fare questo lavoro sporco. E qui rientra tutto il problema sociale, cioè questo avviene, è la conseguenza di un sistema assurdo che stiamo vivendo. Quello che noi lamentiamo è proprio questo, ed è per questo che domenica scorsa abbiamo deciso di non celebrare l'Eucaristia, avevo l'Eucaristia alle 9, abbiamo deciso insieme con i due parroci qui della parrocchia di fare solo un'Eucaristia in piazza. Il questore non ha molto gradito, mi ha mandato con ordine di divieto, l'abbiamo fatto lo stesso. La paura della questura era che scendesse il popolo in piazza. Io ho detto magari il popolo scendesse in piazza. Ecco, l'abbiamo fatto apposta perché penso che la prima risposta fondamentale deve venire dai quartieri, cioè il popolo deve ribellarsi a tutto questo e deve essere il primo a reagire, e non è facile. Ecco un po' il lavoro Padre Zanotelli, lei ha un po' il polso della situazione evidentemente, come sta reagendo la gente? Io penso soprattutto alle madri di questi ragazzi che si sparano addosso. È stata la cosa più impressionante dopo la messa, che sono arrivate in sacrestia e hanno chiesto al parroco e al sottoscritto: dateci una mano perché noi non ne possiamo più e non vogliamo più andare avanti così. Era la prima volta che io sentivo un gruppo di donne parlare così e decise ad uscire a fare una fiaccolata, ed è quello che è successo. Ieri sera si sono trovati in chiesa, una chiesa strapiena, la chiesa di Santa Maria della Sanità, cui abbiamo fatto un'assemblea pubblica in cui per decidere che cosa fare. Abbiamo proposto quello che le donne proponevano, una fiaccolata che faremo questa sera. Stasera alle 6:30 le donne occuperanno la piazza, una grossa piazza questa, la occuperanno letteralmente. Poi si preparerà verso le 8 una fiaccolata che dovrebbe concludersi poi con la piantagione di un ulivo. Sono tre alberi qui sotto la mia finestra, tagliati dai ragazzini, perché ormai questa piazza è metro, la propria piazza di tutto. E metteremo un ulivo su cui verrà fissa la fotografia di Gennaro, ma anche le fotografie dei bambini, delle mamme. Le mamme hanno chiesto di mettere, perché quello che è successo a lui, a questo ragazzino, potrebbe succedere a tanti altri ragazzini. È ora di finirla. Ecco perché le mamme, il grido davvero delle donne, della donna questo. La ringrazio, grazie a padre Alex Zanotelli e speriamo che tutto questo sia il segno di una rinascita civile, quantomeno di un pezzo della città. Noi torniamo sul confine bulgaro dove si trova la nostra Raffaella Calandra, che è stata fermata insieme ad altre due persone dalla polizia, portata al comando della cittadina dove vicino alla quale si sta costruendo questa barriera per evitare il passaggio di profughi. Raffaella, la situazione? Simone, siamo appena arrivati al comando di Helovo, che è vicino al punto di Lesovo dove eravamo poco fa, la polizia ci precedeva, siamo arrivati in questo istante, le due persone del posto che ci avevano accompagnato sono in un'altra camionetta e le hanno riportate non sappiamo bene dove e hanno preso i nostri documenti e adesso staremo a vedere che cosa ci diranno. In sostanza, quando noi siamo arrivati alla barriera c'erano due poliziotti che erano lì, mentre quando poi stavamo andando via, dopo aver fatto delle foto anche, evidentemente hanno chiamato alla centrale perché ci hanno detto poi di fermarci. Sono arrivati, appunto, come vi raccontavo prima, altri quattro, quindi sono diventati sei i poliziotti di confine, poi ancora è arrivato ancora quello che era il loro comandante. Ci hanno portato all'appunto di barriera e poi ci hanno detto di seguirli fino a Helovo, dove mi trovo in questo momento, che è un paesino di questa area molto povera e molto anche sperduta, diciamo, della Bulgaria, e staremo a vedere che cosa mi diranno adesso. Vi farò sapere. Grazie alla nostra Raffaella Calandra però per questo aggiornamento. Però intanto possiamo dire che le foto che abbiamo fatto, anche se alcune ci avevano detto, intimato di cancellarle, alcune le abbiamo anche già diffuse e pubblicate su Twitter. Perfetto, benissimo, su Twitter e poi arriveranno ovviamente anche sul nostro sito www.radio24.it. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Traffico.